c'è, tutto bene. Questo è quello che tu vuoi quando sto con te. Come mai in quella faccia solo amore e poesia vuoi da me? Dimmi qual è in fondo la verità. Se nei tuoi sogni ti chiedi mai se questo è giusto o no, ma non sei tu, ma